America 24 di Mario Platero. Washington represent all of us, not just a handful of very wealthy people. That's the way you bring about real change. Drake University, Iowa. Ieri c'è stato l'ultimo scontro indiretto, è stato un dibattito indiretto, perché non erano tutti e tre i candidati democratici sul campo, l'ultimo scontro appunto per il Partito Democratico prima delle elezioni, prima dei caucus di lunedì. Devo dire che il risultato alla fine, anche se, vi ripeto, non c'è stato uno scontro diretto in cui si poteva vedere il prevalere dell'un candidato sull'altro, ma si è confermata questa presenza forte di Bernie Sanders, questo senatore del Vermont, un esponente della sinistra del Partito Democratico, che sta mettendo in difficoltà Hillary Clinton. Bernie Sanders è percepito come più spontaneo, è percepito come un candidato naturale, mentre Hillary Clinton, che non è molto simpatica in generale agli americani, è percepita come un candidato un po' più costruito. Il terzo, Martin O'Malley, praticamente inesistente, ma i problemi per la Clinton ci sono, perché Bernie Sanders, secondo l'ultimo sondaggio della CNN, che ha poi moderato questo dibattito a distanza, è in vantaggio al 46% in Iowa contro il 44% di Hillary Clinton. Il distacco in New Hampshire è ancora più forte a favore di Sanders, che gioca in casa. Ecco, da un punto di vista di medie dei sondaggi, Hillary resta in testa con il 45% contro il 44% di Sanders, e su base nazionale è certamente in ampio vantaggio, ha il 48-49% contro il 37-38% di Sanders. Però quello che sta capitando in Iowa e in New Hampshire potrebbe presto allargarsi, questa tendenza potrebbe allargarsi anche al contesto nazionale. Una corsa molto molto interessante, perché se Hillary Clinton dovesse uscire sconfitta da questo confronto, si andrà a ridisegnare l'intera mappa di questo scontro elettorale, ed ecco, come vi dicevo ieri, che potrebbe aprirsi una possibilità per Bloomberg, il quale ha anticipato che sta lì a guardare per capire se da una parte i democratici finiscono per favorire un esponente dell'estrema sinistra, Bernie Sanders, e dall'altra i repubblicani e un esponente così poco affidabile come Trump, e allora a quel punto Bloomberg pensa di potersi candidare come indipendente. Rimaniamo in tema elezioni. You're fired. I have no choice. You're fired. Donald Trump, l'avrete riconosciuto subito, è un suo trademark, un marchio di fabbrica, You are fired, ed era il modo in cui liquidava coloro che nel suo programma televisivo The Apprentice non dimostravano di essere all'altezza della sfida di business, di lavoro che il signor Trump, come decisionista assoluto, gli aveva affidato. Ecco, comincio a parlarvi di Donald Trump perché è l'ultima settimana dei giochi, è l'ultima settimana delle moine o degli attacchi velenosi, dei sondaggi che possono essere fasulli o meno, perché da lunedì prossimo entreremo nel vivo della campagna elettorale. Lunedì ci saranno i caucus dell'Iowa e dopodiché, circa una settimana dopo, il 9 di febbraio per essere precisi, ci saranno le primarie del New Hampshire. Dunque è arrivato il momento di cominciare a vedere un po' più nel dettaglio questi personaggi che si propongono per diventare il leader della potenza. Comunque, nonostante il declino, nonostante la Cina, la Russia, Putin e chi più ne ha più ne metta, gli Stati Uniti restano comunque il paese in questo momento più forte del mondo. In all three states, Iowa, New Hampshire and South Carolina, Donald Trump has a commanding lead. Ecco, i sondaggi sono misti, nel senso che Donald Trump ha una sua bestia nera. Questa sua bestia nera si chiama Ted Cruz, senatore conservatore del Texas, che si è venduto come un grande populista o comunque come un uomo che ha rischiato tutto, che è entrato nella mischia politica partendo dal nulla, che ha investito i suoi soldi privati quando doveva correre per il Senato del Texas e così via, così via. In realtà queste cose non si improvvisano. In realtà Cruz era stato già eletto a un incarico importante nel Texas, quindi aveva i suoi legami politici locali molto molto forti, e sua moglie aveva lavorato nell'amministrazione Bush, nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale, aveva anche lei degli importanti addentellati politici nel Partito Repubblicano. Poi a un certo punto, quando si capì che uno stava in Texas e l'altra stava a Washington, fu lei che decise di tornare a stare col marito. Ha avuto tra l'altro dei problemi perché ha avuto una crisi di depressione rientrando in Texas. Poi si è messa a lavorare con Goldman Sachs e si è scoperto nei giorni scorsi che questa verniciatura di assoluta purezza e di assoluta autonomia e indipendenza di Cruz in realtà aveva alcune incrinature. Perché? Perché la moglie, attraverso Goldman Sachs, è riuscita a organizzare un prestito piuttosto importante che aiutò la campagna elettorale di Cruz nel momento in cui doveva affrontare addirittura le primarie il suo concorrente. E su questo Trump è saltato come una tigre, ha smascherato, come ha detto lui, Cruz per quello che è, un politicante di assoluta normalità, e grazie a questo attacco è riuscito a recuperare su Cruz e a metterlo di nuovo sulla difensiva. Ecco, io non credo che nessuno abbia davvero un'idea di come andranno a finire i caucus dell'Iowa o le primarie del New Hampshire, perché i sondaggi finora si sono dimostrati poco affidabili, ma se dobbiamo andare ai sondaggi, più o meno i due sono testa a testa, cosa che rende ovviamente le cose più difficili, perché in Iowa una volta in testa uno, una volta in testa l'altro, adesso negli ultimi sondaggi era in testa Trump con un margine molto limitato, tipo 26 contro 25%, lo stesso in New Hampshire, dove c'è un margine un po' più elevato, ma sempre siamo nell'ordine di errori, perché 26,5 per Cruz, 28% per Trump. Chi sono gli altri in corsa? Beh, abbiamo Marco Rubio che incalza però intorno al 13%, non riesce a fare quel balzo che possa dargli la credibilità. Poi abbiamo ovviamente Jeb Bush, che però è abbastanza in basso, abbiamo Chris Christie, governatore del New Jersey, abbiamo Carly Fiorina, l'ex manager della Hewlett Packard. Ecco, questo per dirvi che cosa? Che c'è una spaccatura del voto, non c'è un chiaro leader, non ci sono due chiari leader, uno al 45 e l'altro al 39, e d'altra parte siamo agli inizi e subito dopo il New Hampshire sappiamo di certo che alcuni si ritireranno, fra questi probabilmente Carly Fiorina. Poi procederemo col Nevada, procederemo col South Carolina, ma la lotta all'interno del Partito Repubblicano è durissima, e Trump, questo è un fatto piuttosto interessante, ha contro l'establishment o comunque coloro che si considerano l'establishment, perché The National Review, che è uno dei magazine del partito più ascoltati, più sentiti, più autorevoli, National Review, ve lo ricordo, rivista fondata da William Buckley, che è uno dei più grandi punti di riferimento del movimento conservatore americano, uomo raffinato dal punto di vista intellettuale, ma dentro ci sono personaggi come Bill Kristol, per esempio, che ha avuto sempre un'influenza molto importante sull'ideologia del partito nel suo insieme, Alison Moore, insomma una gran quantità di rappresentanti dell'establishment. E per tutta risposta Trump, che ha detto: calling in, you're up 6 points from our last poll, you're leading the Republican pack at 18%. Your reaction. State andando talmente male come vendite, come prodotto, che volete rifarvi attaccandomi, però non ci riuscirete, perché voi siete un volto del passato mentre io sono il volto del futuro. Ecco, una battaglia dura dunque all'interno del Partito Democratico. Domani cercherò di raccontarvi più nel dettaglio il personaggio Trump e come mai è riuscito ad affermarsi in questo paese difficile dal punto di vista elettorale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato dell'avvio di queste elezioni americane, abbiamo cominciato con i repubblicani, dove il gruppo è più vasto, ma alcune difficoltà ce le ha anche Hillary Clinton all'interno del Partito Democratico. Dunque alla fine di questa settimana si comincerà a capire chi saranno i veri candidati. E dunque come canzone vi propongo dei Shangri-La, Leader of the Pack, il leader del branco, il leader del gruppo, perché è questo che succederà a partire da lunedì prossimo. Sapremo chi saranno i leader di questi gruppi sparsi fra democratici e repubblicani. My folks were always putting him down.